Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Avevamo proposto che ci fosse un Election Day, manteniamo quel tema, anche perché ci immaginiamo le polemiche dei giorni prossimi sui costi. Mi pare che la stessa data del 28 maggio scelta dal governo dimostra che sarebbe assolutamente possibile far coincidere le elezioni amministrative con il referendum. Non credo di poterlo escludere, c'è una competenza del ministro, certo, degli interni e del Consiglio dei Ministri, ma è una cosa a oggi possibile. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro Poletti e la leader della CGIL Camusso che hanno parlato, nel senso che sapete che ci dovranno essere i referendum prossimamente il 28 maggio e quindi Poletti non ha escluso, come su richiesta della CGIL, di fare un accorpamento, il cosiddetto Election Day, per questioni anche, diciamo, soprattutto di risparmi, ma anche perché le persone sono più invogliate, andando a votare una volta sola, di votare sui vari argomenti. Quindi di unire, dice Poletti, sia le elezioni amministrative sia, come chiesto la CGIL, i referendum proposti appunto dal sindacato sui voucher e sugli appalti, che si sa si voterà il prossimo 28 maggio. Di molte cose però, come sempre, ci occuperemo qui a Effetto Notte questa sera. Torneremo innanzitutto sul tema della legittima difesa, parleremo con una penalista, sempre la solita questione, no? Capire fino a che punto è legittima difesa e quando poi diventa omicidio volontario, anche rispetto all'ultimo caso in Lodigiano, ma insomma negli ultimi anni ce ne sono stati diversi. Poi ci colleghiamo con la Francia, perché Fillon, il candidato del centrodestra, è ufficialmente indagato, e poi ci sono i problemi dell'Olanda con la Turchia. C'è la partita in campo di Champions Juventus-Porto, che per il momento, già vi aggiorno, va 0-0 per il momento. E per, prima di approfondire tutti i temi, naturalmente riassunto della giornata, e poi per la vostra interazione qui a Effetto Notte, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook del programma oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Ma prima di tutto, sintesi della giornata. Francia, il candidato del centrodestra Fillon indagato per gli impieghi fittizi per moglie e figli. Olanda, domani il paese va al voto ed è sempre più ai ferri corti con la Turchia. Libia, la CNN rivela che la Russia ha schierato forze speciali al confine con l'Egitto, ma Mosca smentisce. Gli ambasciatori di Francia, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti intanto chiedono la fine delle violenze. Referendum sui voucher, sugli appalti, si vota il 28 maggio e il ministro Poletti non esclude che si voti in contemporanea per le amministrative. Legittima difesa, archiviata l'inchiesta sull'orefice che nel 2015 uccise un rapinatore a Rodano nel Milanese. Torino, sedute spiritiche con stupri di gruppo, tre persone arrestate. Sgominata vigevano una baby gang e i presunti componenti della banda accusati di vessazioni, umiliazioni di coetanei e vandalismo contro i treni. Stop della Corte Europea al velo, è possibile vietarlo sul lavoro, sia una norma interna che bandisce segni politici o religiosi. E per il calcio, per la sfida di Champions in campo appunto Juventus-Porto, la squadra di Allegri riparte dal 2-0 dell'andata. E partiamo quindi dalla Francia, dove il candidato del centrodestra alle presidenziali è stato ascoltato oggi dai giudici nell'ambito dell'inchiesta sugli impieghi fittizi alla moglie Penelope e ai due figli, e poi è stato indagato ufficialmente. Che piega prenderà adesso la corsa all'Eliseo, quindi in Francia, ne parleremo tra poco collegandoci direttamente con Parigi. E da Parigi in Olanda, che domani va al voto nel pieno delle polemiche con la Turchia. Non si placa lo scontro tra Olanda e Turchia, raggiungendo nuovi abissi di insulti a distanza. La miccia l'accende tanto per cambiare il presidente turco Erdogan, che attacca. Conosciamo l'Olanda e gli olandesi dal massacro di Srebrenica, sappiamo che carattere marcio hanno dal loro massacro di 8.000 bosniaci. Rincara Erdogan, l'Olanda è responsabile della peggiore strage dalla Seconda Guerra Mondiale, riferendosi al battaglione olandese di caschi blu ONU che non impedì l'uccisione di 8.000 musulmani da parte delle forze serbo-bosniache. Le affermazioni di Erdogan sono una disgustosa distorsione della storia, ribatte a muso duro il premier olandese uscente Mark Rutte alla vigilia di difficilissime elezioni che potrebbero sancire la vittoria dell'estrema destra di Wilders. Non ci abbasseremo al suo livello, è inaccettabile, ha aggiunto Rutte. Erdogan neanche per la Germania. Berlino e L'Aia sono stati banditi che stanno danneggiando l'Unione Europea, aggiunge. E per non dimenticare nessuno, il delirio nazionalista di Ankara si allarga all'intera Europa. La posizione di Bruxelles a difesa dell'Olanda, contesta la Turchia, rafforza gli estremisti. Una posizione miope, la definisce il ministero degli esteri turco, che, aggiunge, non ha alcun valore per noi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la situazione è sempre più confusa in Libia. Le forze del generale Haftar, vicino al parlamento di Tobruk, hanno annunciato la riconquista di due strategici terminali petroliferi. Forze speciali russe, intanto, ci sarebbero in Egitto, in una base egiziana, e potrebbero aiutare l'avanzata del generale. Mosca però smentisce questa notizia arrivata da CNN. Per fare un po' di chiarezza, più tardi sarà ospite qui a Effetto Notte l'esperto dell'ISPI Arturo Varvelli, nella situazione sempre più caotica della Libia. Ancora all'estero, il presidente americano Donald Trump è estremamente fiducioso che il Dipartimento di Giustizia fornirà le prove a sostegno delle sue accuse a Barack Obama di averlo fatto intercettare durante la campagna elettorale. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca nella conferenza stampa quotidiana. Il presidente, aggiunto, è fiducioso che le informazioni non ancora fornite lo vendicheranno. Così ha detto Trump. La politica italiana adesso, con il referendum sui voucher e gli appalti. La consultazione numero 73 dal dopoguerra si terrà il 28 maggio. Due i quesiti referendari al voto il 28 maggio, il nodo dei voucher e le disposizioni che limitano la responsabilità solidale sugli appalti. Sui buoni lavoro, tuttavia, la partita resta articolata. Da una parte la CGIL, che con la Camusso chiede che vi sia l'election day, che si voti il referendum lo stesso giorno delle amministrative, dall'altra la possibilità che il Parlamento riscriva la norma, domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Modifiche che non soddisfano comunque il sindacato, così la stessa Camusso. Vedremo qual è la proposta finale, se è quella che è già stata annunciata dal comitato ristretto, mi pare che non svuoti nulla, nel senso che mantiene tutte le formulazioni per cui il voucher torna ad essere uno strumento di precarietà. Il referendum sui voucher si può ancora evitare, commenta dalla CISL la Furlan. Basta ridefinire i voucher e riportarli alla legge Biagi. La disciplina dei buoni va cambiata radicalmente o sosterremo il referendum, aggiunge Barbagallo Will. Sia il referendum intanto dalle opposizioni. La Coldiretti però avverte: l'abrogazione dei voucher nei campi favorisce il sommerso. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo in Parlamento tiene banco il caso Lotti. La maggioranza si divide sul voto a Luca Lotti previsto domani in Senato. Dopo la scissione, i fuoriusciti PD presentano una loro mozione per chiedere al Premier Paolo Gentiloni di ritirare le deleghe al Ministro dello Sport. Una situazione di imbarazzo per il PD, tanto che Lorenzo Guerini parla di un atteggiamento molto singolare per una forza di maggioranza. Mentre per il capogruppo Dem Luigi Zanda la proposta MDP verrà respinta. Tutto questo quando la conferenza dei capigruppo conferma la discussione della mozione di sfiducia 5 Stelle contro Luca Lotti, indagato nella vicenda Consip per rivelazione di segreto e favoreggiamento. I democratici e progressisti non parteciperanno al voto su quella presentata dai grillini. Roberto Speranza parla invece della propria, un problema di opportunità politica, dice. La discussione al via Palazzo Madama dalle 16:30. Favorevoli ai 5 Stelle sono anche Lega e Sinistra Italiana, mentre Forza Italia ha una posizione più garantista. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È stato firmato il decreto del Ragioniere Generale dello Stato che attribuisce a comuni, province e città metropolitane spazi finanziari per l'anno 2017 per complessivi 700 milioni di euro da investire in settori come l'edilizia scolastica, il dissesto idrologico, adeguamenti alle norme antisismiche, lo rende noto il Ministero dell'Economia sul sito, spiegando che l'attribuzione di questi spazi finanziari interessa tutto il territorio nazionale. E adesso invece parliamo di fisco con le novità in arrivo. Buone notizie per i contribuenti. La proroga della rottamazione delle cartelle Equitalia ci sarà, arriverà con un decreto del governo nei prossimi giorni. E ciò significa che ci saranno 21 giorni in più per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle fissata per il momento al 31 marzo. La rottamazione riguarda anche i ruoli degli altri enti che hanno aderito pur non avendo affidato la riscossione ad Equitalia. Intanto, sempre sul fronte fiscale, altre novità con l'accordo raggiunto tra Italia e Svizzera per uno scambio automatico continuativo di informazioni a partire da settembre 2017. Un accordo che, secondo il Ministero dell'Economia, spingerà le adesioni alla voluntary disclosure. L'intesa riguarda anche i cosiddetti contribuenti recalcitranti che non hanno fornito il nome del proprio istituto in Svizzera. Secondo il Ministero, la recente riapertura dei termini della collaborazione volontaria rappresenta un'importante opportunità per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione. E dalla prima edizione della voluntary disclosure il Tesoro ha raccolto oltre 4 miliardi di euro. La riapertura dei termini vale, secondo le stime governative, un altro 1.600 milioni. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Con l'approvazione del piano industriale, parliamo di Alitalia, attesa al Consiglio, Consiglio di amministrazione domani, sia l'avvio di una nuova fase per Alitalia, Luca Cordero di Montezemolo lascerà quindi la presidenza della compagnia, rimarrà però nel Consiglio di amministrazione. E adesso una risoluzione del Parlamento europeo che evidenzia la crescente tendenza del ricorso eccessivo all'obiezione di coscienza sull'accesso all'aborto. È quanto si legge in una risoluzione non legislativa approvata oggi dalla plenaria di Strasburgo. Gli eurodeputati invitano gli stati membri a garantire che l'obiezione di coscienza non impedisca alle pazienti di accedere alle cure mediche legittime. La risoluzione sulla parità uomo-donna nel 2014-2015 è passata con 369 voti a favore, 188 contrari e 133 astenuti. E poi la Corte di Giustizia invece adesso sul velo islamico ha bocciato il ricorso di una donna musulmana licenziata in Francia per essersi rifiutata di togliere il velo al lavoro. Per i giudici il divieto di indossare un velo islamico, se deriva da una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. Critiche alla Corte di Giustizia europea da parte delle comunità religiose, anche Amnesty, dice Amnesty International, aumenteranno in questo modo le discriminazioni. Siamo alla cronaca. A Torino, stupri di gruppo nelle sedute spiritiche tra le persone arrestate, vittima una minorenne. All'inizio mi fidavo, pensavo potesse aiutarmi, poi si è trasformato in un incubo. Parla così la studentessa torinese che ha fatto arrestare il gruppo di maravitosi che, spacciandosi per santoni, per anni hanno abusato di lei durante sedute che definivano curative. A finire in manette a Torino, con l'accusa di stupro di gruppo, tre persone: il sedicente santone Paolo Meraglia, 69 anni, originario di Gioia del Colle, il complice Biagino Viotti, un pensionato di 73 anni che metteva a disposizione una mansarda per i riti, e un giovane di 19 anni, il fidanzato della vittima, la cui madre avrebbe addirittura assistito alle violenze. La 17enne, che alla fine ha denunciato gli abusi, aveva 15 anni quando ha cominciato a prendere parte alle cosiddette sedute spiritiche perché convinta dal santone di essere vittima di forti negatività e quindi bisognosa di purificazione attraverso rapporti sessuali anche di gruppo che si svolgevano sotto l'effetto di sostanze che seminarcotizzavano la giovane. In casa del santone è stato sequestrato materiale ora all'analisi degli investigatori, tra cui manuali di magia pratica, tarocchi, manoscritti esoterici, oltre che moltissimi video art che ritraggono la minorenne, ma anche altre donne. Si indaga ora per accertare se vi siano altre vittime del gruppo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora la cronaca, questa volta a Vigevano in Lombardia, catturati presunti componenti di una baby gang, accusati di vessazioni, umiliazioni di coetanei, vandalismo contro i treni. Le violenze e le umiliazioni venivano esibite come trofei su sistemi di messaggistica istantanea. Fra le accuse anche pornografia minorile. Nelle immagini appare un coetaneo, il più bersagliato del gruppo, afferrato con la forza, denudato, tenuto appeso a testa in giù sopra un ponte, costretto a subire atti sessuali. Il ragazzo è stato salvato da un amico che ha raccontato tutto e collaborato con le indagini. Tutti gli arrestati hanno ammesso le violenze, ma tre di loro accusano il leader, dicono è stata tutta colpa sua. Legittima difesa, è stata archiviata l'inchiesta sull'orefice che nel 2015 a Rodano nel Milanese uccise un rapinatore albanese entrato nella sua casa. Fu legittima difesa. Intanto il leader della Lega Salvini invita a una manifestazione a Verona il 25 aprile per sollecitare la legge sulla legittima difesa. Questo ha creato reazioni politiche proprio per la scelta del giorno della liberazione, il 25 aprile. Giovedì ci sarà il nuovo interrogatorio del ristoratore dell'Odigiano accusato della morte di un ladro. Tra poco, come vi dicevo all'inizio, torneremo sul tema della legittima difesa. E adesso ancora una notizia dall'estero, terribile, viene da Vienna. Quasi tutto il personale di una tristemente nota clinica di Vienna, in cui i nazisti uccisero centinaia di bambini disabili, conservò il posto, gran parte del personale, il posto di lavoro dopo il 1945 e continuò per decenni a perpetrare abusi e maltrattamenti sui piccoli pazienti. Un rapporto delle autorità austriache afferma che 600-700 bambini e ragazzi furono ricoverati alla clinica Pavilion 15, gestita con un integrale sistema di violenza tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni Ottanta, pensate. Il rapporto, basato sulle interviste di ex pazienti e dipendenti, rileva che un impiego e un distacco ideologico con il periodo nazista inadeguati contribuirono a queste condizioni disumane. E poi questa notizia, sentite, che arriva dal Parlamento europeo, voleva, non so se ricordate nei giorni scorsi, il deputato polacco che voleva ridurre lo stipendio alle donne, invece sarà il suo, a dimagrire di quasi 10.000 euro. Costano care, infatti, l'eurodeputato polacco Janusz Korwin-Mikke le sue dichiarazioni sull'universo femminile durante un'intervista in aula. Il 1 marzo aveva definito giusto che le donne prendessero stipendi inferiori perché, disse, più deboli, più piccole e meno intelligenti. Ora dovrà restare 30 giorni senza diaria, pari a 306 euro al giorno, sospeso per 10 giorni dai lavori parlamentari e un anno senza poter rappresentare il Parlamento europeo. Questa è la punizione data da Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, dice l'eurodeputato, esprime disprezzo per i nostri valori fondamentali. Invece sentiamo se è apprezzabile per ora la partita Juventus-Porto con il nostro Dario Ricci, inviato allo stadio di Torino. Dario. Buonasera da Torino, 32esimo di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0, la Juventus va benissimo perché, lo ricordiamo, i bianconeri partono in questa sfida forti del 2-0 dell'andata che li avvicina decisamente ai quarti di finale. Finora un Porto ordinato nel palleggio che prova a fare la partita, ma finora non crea grossi problemi dalle parti di Buffon. Qualche pericolo invece l'hanno creato proprio i bianconeri, al sesto con un colpo di testa di Mandzukic per Dybala, il cui sinistro è terminato al lato, pochi istanti prima un'altra incursione di Dybala, anche questa fuori misura, e poi soprattutto al 23 il cross dalla destra di Cuadrado, il colpo di testa di Mandzukic, attento Casillas, l'ex portiere del Real Madrid, grande portiere del Real Madrid e della Spagna, che difende i colori del Porto. 32esimo di gioco qui allo Stadium di Torino, 0-0 tra Juventus e Porto. Grazie Dario Ricci, adesso ci lasciamo brevemente per aggiornare chi viaggia, poi torniamo insieme, torniamo a parlare di legittima difesa, argomento incandescente, no? Di tanto in tanto torna d'attualità con i vari casi, poi vi ricorderò almeno quelli più recenti tra poco. Per i vostri messaggi 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS, oppure il pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Nuovo insieme, Roberto Giordano sempre con voi, quindi riassunto delle notizie, l'avete sentito, ricordatevi sempre di accendere puntualmente alle 21 in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo a proposito di una notizia, perché se ascoltate Effetto Notte tutte le sere dalle 21 alle 22 non potete che conoscere almeno i fatti principali. Tra poco ve li ricordo se non avete acceso appunto puntualmente, e poi passiamo al tema della legittima difesa, già molti i vostri messaggi, per esempio Francesco sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice est modus in rebus, buonismo e forcaiolismo sono la stupidità concava e convessa, difendere beni e persone è sacrosanto, impallinare chi sta platealmente fuggendo no. Vittorio dice la legge sulla legittima difesa è una buona legge, tutela già chi pensa di essere in pericolo nella propria abitazione, tra parentesi non chi è in pericolo ma chi pensa di essere in pericolo, tanto che i casi di cronaca più famosi negli ultimi anni, tipo quello di Scazzi, non mi pare che fosse Scazzi, sono finiti con l'archiviazione. Comunque i casi sono vari. Elena dice: secondo me legittima difesa è quando una persona in procinto di poter essere uccisa uccide il proprio assalitore, tipo uno entra in casa con un'arma, ho fondate ragioni di ritenermi in pericolo di vita. Molti altri messaggi, però direi di ricordare a chi avesse acceso avventatamente ora anziché alle 21 le notizie principali e poi andiamo sul tema. Referendum ci sarà sui voucher e sugli appalti, ci sarà il 28 maggio e il ministro del lavoro Poletti non esclude però un election day il 28 in modo che si possa votare anche per le amministrative. E poi si va verso la mozione di sfiducia per il ministro Lotti, anche il movimento dei democratici e progressisti presenta una mozione per chiedere a Gentiloni di ritirare le deleghe a Lotti fin quando non sarà chiarita la vicenda Consip, però Speranza del movimento dice non parteciperemo al voto sulla mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle. In Francia guai per il candidato del centrodestra Fillon, che è indagato ufficialmente per appropriazione indebita, e domani c'è il voto in Olanda, un test importante sull'Unione Europea. Cresce intanto la tensione tra Olanda e Turchia. Stop della Corte Europea al velo, è possibile vietarlo sul lavoro? Sì, a una norma interna, dice la Corte, che bandisce segni politici o religiosi. E poi la ministra dell'Istruzione Fedeli, oggi contestata alla Sapienza, scontri tra studenti e polizia. E lei dice il confronto sì, la violenza no. Sedute spiritiche a Torino per fare poi stupri di gruppo, 3 arresti, accuse a un 16enne e a un mago e ai suoi presunti complici. E poi violenze, altre violenze, questa volta a Vigevano, di una baby gang che è stata sgominata e soprattutto vessavano e umiliavano coetanei. Montezemolo, che lascia la presidenza di Alitalia, ma resta nel consiglio di amministrazione. E poi per la partita di Champions Juventus Porto, sempre 0-0. E allora approfondiamo il tema caldissimo e controverso, quello appunto della legittima difesa. Negli ultimi anni l'argomento è stato a più riprese al centro del dibattito sia pubblico che politico, senza però che evidentemente si sia arrivati a una definizione condivisa, normativa, una definizione normativa che possa soddisfare tutti. L'ultimo caso, lo sapete, è quello avvenuto nei giorni scorsi nell'Lodigiano, precisamente il 10 marzo, venerdì scorso, a Casaletto Lodigiano in provincia di Lodi, un ristoratore, Mario Cattaneo, ha sparato a uno dei 4 ladri che erano entrati nel suo locale uccidendolo. Cattaneo ora è indagato per omicidio volontario e domani per lui ci sarà un nuovo interrogatorio. Ma di casi ce ne sono stati che hanno riaperto questo dibattito, molti, no? Negli ultimi anni ce ne sono stati vari. Proprio oggi è stata archiviata tra l'altro l'inchiesta sull'orefice che nel 2015 a Rodano, nel Milanese, uccise un rapinatore albanese entrato nella casa. Secondo i giudici fu legittima difesa e ieri è stato assolto dalla Corte d'Appello di Venezia Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Corezzola in provincia di Padova, che il 25 aprile del 2012 sparò e uccise un ladro sorpreso a rubare nella sua tabaccheria. In pratica i giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado e hanno detto che fu appunto legittima difesa. E poi altri 2 casi che hanno fatto discutere: il 3 febbraio 2015 in provincia di Vicenza, il 66enne Graziano Stacchio, vi ricordate, che ha sparato a un gruppo di rapinatori che stavano rubando in una gioielleria lì vicino. Lui ha sparato dalla sua pompa di benzina, ha ucciso uno dei rapinatori. Nel giugno del 2016 il suo caso è stato archiviato e ancora il 20 ottobre del 2015 a Vaprio d'Adda, in provincia di Milano, il pensionato Francesco Sicignano ha ucciso un ladro che si era introdotto nella sua villetta di notte, e nel giugno 2016 è stata chiesta l'archiviazione. Ora quindi le opposizioni, dopo questo nuovo caso, appunto quello dell'Lodigiano, vanno all'attacco sulla mancata riforma della legittima difesa. A che punto è questa legge, questa riforma? Ne parliamo con Paola Ghirardelli, che è avvocata penalista, autrice del libro Legittima difesa, quando e come difendersi nel rispetto della legge. Dottoressa Ghirardelli, buonasera. Buonasera a voi. Quindi c'è una legge sulla legittima difesa? C'è, qualcuno magari pensa che non c'è, però da un po' si parla di una riforma, proprio in seguito a tutti questi casi che creano delle situazioni complesse, dolorose, controverse, no? Sì, certo. Ma dunque, la legislazione c'è naturalmente, e ovviamente è un articolo, è l'articolo 52 del Codice Penale, che ha già subito, per la verità, una riforma nel 2006 proprio relativamente ai casi di aggressione all'interno dell'abitazione o del negozio, insomma, di altro privato domicilio. Quindi in realtà una legge noi l'abbiamo. Il problema di questa legge, in sintesi, è che è abbastanza complessa, un po' farraginosa, sono una serie di commi dove appunto a volte il legislatore, quando interviene, come succede spesso in Italia, mette mano già a quanto scritto inserendo delle semplici frasi all'interno di commi, quindi creando un po' di confusione, e che peraltro è anche quello che sta succedendo nel disegno di legge che c'è al momento al vaglio del Parlamento. Quindi diciamo una complicazione più che una semplificazione, che però ovviamente noi dobbiamo tenere presente che la legge disciplina un casi generali. Il problema poi è l'applicazione che viene fatta nei casi concreti. Vedi, ad esempio, ricordava lei il ribaltamento che c'è stato rispetto a un primo grado in appello di una decisione che prima era stata sfavorevole all'imputato e che invece poi è diventata favorevole perché è stata applicata la scriminante, diciamo la legittima difesa. Quindi in realtà poi il problema è anche come viene interpretata la legge, e certamente una complessità della norma non aiuta l'interprete. Ci sono altre legislazioni europee in cui ci sono articoli di 3 righe, ma veramente 3 righe, dove si disciplina in generale, tenendo conto di parametri un po' diversi dai nostri e inferiori, e dove ovviamente poi il giudice ha uno spazio apparentemente più ampio, ma in realtà molto più garantista. Da noi ci sono tanti paletti di difficile interpretazione, anche appunto per gli addetti ai lavori. Quindi sicuramente un intervento è auspicabile. Quindi ma è in auspicabile. Senso ma in senso semplificatorio, non di complessità ulteriore, perché quello che adesso è al vaglio, diciamo, del Parlamento, e non sappiamo poi l'iter ovviamente come si concluderà, in realtà interviene sulla stessa norma che già abbiamo, aggiungendo delle ulteriori specificazioni, il che ovviamente, a mio parere, ma ovviamente è un parere personale, andrà soltanto a complicare l'applicazione futura della norma. Insomma, ci auguriamo di no, avvocata Ghilardelli, visto che lei l'ha spiegato così bene, ma tema è pessimista lei su questo? Ma guardi, il problema dell'Italia è una legiferazione eccessiva e spesso non fatta da tecnici, cioè gli addetti ai lavori. Purtroppo quando si fanno le leggi bisogna prendere il classico professore universitario, il magistrato, l'avvocato, cioè quelli che poi questi strumenti li devono utilizzare, perché è lì che nascono le difficoltà alla fine. In realtà poi cioè, i discorsi politici, che sono legittimi per l'amor del cielo, ma anche tutti questi discorsi che noi sentiamo in questi giorni, non sono per nulla tecnici, cioè si dicono delle cose inesatte, sia sotto il profilo di quello che già abbiamo, sia sotto il profilo di nuove modificazioni, perché appunto non sono gli addetti ai lavori. L'eccesso colposo di legittima difesa sono concetti estremamente tecnici che vengono utilizzati appunto così anche un po' a vanvera dagli esponenti. Avvocata Ghilardelli, si faccia avanti lei? Ma come consulente? Guardi, io mi faccio avanti tutti i giorni nelle aule di giustizia, francamente, devo dire con non poche difficoltà, proprio perché, ripeto, la legge la complessità non ci aiuta, di questa legge. Non ci aiuta, non ci aiuta, perché anche qui, ad esempio nel caso che discutevamo oggi, voi vedete già nei giornali la ricostruzione, l'omicidio volontario. Scandalo, no? Ma in realtà poi attenzione un attimo, vediamo, ci sarà la perizia balistica, ci sarà l'autopsia, cioè non sempre le cose poi possono essere come appaiono, come vengono raccontate sui giornali. Ci sono delle questioni tecniche che però sono applicate nel caso concreto e lì noi dobbiamo fare la massima attenzione, perché ovviamente è vero che a volte si è recisa una vita, ma ce ne sono anche altri in gioco, che sono quelli appunto di chi si è dovuto difendere, che ha anche un aspetto psicologico non indifferente, perché non siamo killer professionisti, cioè gente che si ritrova a dover uccidere comunque un'altra persona, quindi lo shock psicologico e il trauma successivi esistono, quindi massimo rispetto. Grazie avvocata Paola Ghilardelli, speriamo che questa riforma della legge faccia il suo iter in modo meno complicato di come siamo complicati un po' tutti noi italiani. Grazie avvocata. Ce l'auguriamo tutti, buona serata. Buona grazie serata a lei. Adesso invece mi sa che Dario Ricci dallo stadio della Juventus ci deve aggiornare sulla partita. Dario? Sì, buonasera, siamo al 44esimo di gioco e da due minuti la Juventus è in vantaggio 1-0 sul Porto, calcio di rigore di Paolo Dybala e stavolta non dovrebbero esserci polemiche, perché vi racconto l'azione, il calcio d'angolo di Dani Alves, il colpo di testa di Alexandro, prodezza di Iker Casillas, il portiere del Porto che respinge la palla praticamente sulla linea, interviene Higuain che prova a deviare a botta sicura, Maxi Pereira, difensore del Porto, si tuffa e praticamente sostituisce in tutto e per tutto il suo portiere, parando letteralmente con tutte e due le braccia il pallone. Calcio di rigore nettissimo decretato dal romeno Ategan, che ha anche espulso Maxi Pereira, perché chiaramente l'occasione era evidentemente da gol. Sul dischetto Paolo Dybala, che non ha lasciato scampo a Casillas spiazzandolo. Juventus quindi in vantaggio per 1-0 al 45esimo. In questo istante decide la rete tre minuti fa su calcio di rigore di Paolo Dybala. Juventus in vantaggio anche di un uomo per l'espulsione di Maxi Pereira. Grazie Dario Ricci da Torino, buona partita intanto. Invece noi ci prendiamo questa pausa per la pubblicità e poi cambiamo tema. Vi ricordo, per i vostri messaggi, per le vostre interazioni, sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, e poi il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Tra i vostri messaggi Salvatore scrive: in uno Stato liberale dovrebbe essere lo Stato sul banco degli imputati per non aver adempiuto al compito al quale i cittadini lo hanno delegato in via esclusiva. In uno Stato fascista sarà colpevole sempre il cittadino, così dice, in modo così un po', diciamo, sopra anche le righe Salvatore. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Nota siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Avete sentito molte notizie, il riassunto all'inizio, poi ci siamo occupati di legittima difesa con un'avvocata penalista esperta appunto di questo tema che continua a essere molto dibattuto, molto controverso. Lei stessa ha detto qui devono fare una riforma che in parte è stata fatta della legge, ma finisce che la complicano anziché semplificarla, quindi diventa sempre più difficile capire bene quali sono i limiti, no, tra legittima difesa, omicidio volontario, come va applicata, come va interpretata. I vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Per esempio Nino scrive: quello che posso dire è che difendere la mia famiglia in ogni modo, ma in modo altrettanto perentorio affermo che lascerei che sia un tribunale a determinare il mio grado di legittimità della mia risposta, senza giornali o politici intorno e senza solidarietà pelose, dice. Poi Claudio scrive: finché lo Stato non garantirà certezza della pena e processi celeri, ci saranno sempre persone che cercheranno scorciatoie col fai da te. Tra poco cambiamo argomento, intanto se l'avete acceso puntualmente alle 21, queste le notizie più importanti. Francia, il candidato del centrodestra Fillon indagato per gli impieghi fittizi per moglie e figli, ne parleremo tra pochissimo. Olanda, domani il paese va al voto ed è sempre più ai ferri corti con la Turchia. Libia, la CNN rivela che la Russia ha schierato forze speciali al confine con l'Egitto, ma Mosca smentisce. Referendum sui voucher e sugli appalti si vota il 28 maggio, il ministro Poletti non esclude che si voti contemporaneamente per le amministrative. Legittima difesa, ne abbiamo appena parlato, archiviata l'inchiesta sull'orefice che nel 2015 uccise un rapinatore a Rodano nel Milanese. Torino, sedute spiritiche con stupri di gruppo, 3 persone arrestate. Stop della Corte Europea al velo, è possibile vietarlo sul lavoro, sia norma interna che bandisce segni politici o religiosi. E per il calcio, nella partita di Champions tra Juventus e Porto, conduce per il momento la Juventus 1-0. Ora andiamo invece in Francia, perché a soli 40 giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali, il candidato del centrodestra, che già era un po' nel mirino nelle ultime settimane, se non negli ultimi mesi, François Fillon, è ora indagato ufficialmente nell'inchiesta per gli stipendi, per gli impieghi fittizi a moglie e figli, accusato formalmente di appropriazione indebita di fondi pubblici per questi incarichi di lavoro appunto retribuiti, dati ai familiari ma ritenuti fittizi. A novembre Fillon era dato per favorito alla vittoria, ma ora, caro Marco Mussanè, corrispondente di Sole 24 Ore da Parigi, caro Marco, mi sembra sempre più in salita la sua corsa, o sbaglio? Beh sì, non c'è dubbio che le difficoltà per Fillon aumentano di giorno in giorno. In realtà, per quanto riguarda l'inchiesta sul presunto lavoro fittizio della moglie e dei figli, non c'è nulla di particolarmente nuovo. L'avviso di garanzia era largamente atteso, lui stesso l'aveva preannunciato per il 15, c'è stato un anticipo di 24 ore, ma questo non cambia, mi sembra, sostanzialmente le cose. Piuttosto l'immagine di Fillon continua ad essere in difficoltà a causa di altre continue rivelazioni, certo meno importanti, che però riguardano un certo modo, come dire, di concepire il confine, diciamo, tra politica e affari e tra politica e interessi economici, come dire, familiari. Nei giorni scorsi ci sono state delle rivelazioni su un prestito che Fillon ha ricevuto da un amico miliardario, un prestito a tasso zero di 50.000 euro che Fillon si è dimenticato, stando alla sua versione, di segnalare all'autorità sulla trasparenza della vita pubblica. L'altro giorno è uscita questa notizia sul fatto che un misterioso mecenate, amico di Fillon, gli regala degli abiti da 6.500 euro l'uno, e certo si può intuire la difficoltà che ha poi Fillon nel parlare nei suoi comizi di lotta alla grande povertà o dei sacrifici che il paese dovrebbe fare. E di oggi è l'ultima rivelazione sul fatto che i due figli, che hanno appunto lavorato forse come assistenti parlamentari del padre quando erano ancora studenti, hanno in realtà riversato sul conto del padre e della madre una parte di queste retribuzioni, a titolo la figlia di rimborso delle spese matrimoniali e il figlio di affitto dell'appartamento, insomma quasi una partita di giro familiare finanziata con i fondi pubblici. Ecco. E questo stillicidio continuo di piccole informazioni, di un velo che ogni giorno continua ad alzarsi sulla reale personalità di una figura che ha costruito la propria carriera politica e la vittoria alle primarie su un'immagine di grande probità, di integrità morale. Ecco, è questo che danneggia continuamente, giorno dopo giorno, Fion, che non riesce sostanzialmente a fare campagna elettorale sui temi veri del proprio programma. Senti Marco, quindi per chiudere, come la corsa com'è messa a questo punto? I tre contendenti sono appunto lui, Fion, del centrodestra. Secondo i sondaggi, Marine Le Pen continua a essere in testa al primo turno del 23 aprile con uno score diciamo intorno al 26-27%, seguita dall'ex ministro dell'economia, l'outsider indipendente Emmanuel Macron intorno al 25% e Fion intorno al 19%. Ecco, una sola considerazione a questo riguardo, cioè nel senso che apparentemente la partita sembra giocata, cioè andranno al ballottaggio la Le Pen e Macron. Restano ancora dei dubbi, delle perplessità sulla tenuta dell'elettorato di Macron, che essendo un candidato nuovo, non avendo un partito alle spalle, ha un elettorato che è ancora ovviamente molto mobile, quindi diciamo che delle notizie dell'ultima ora, delle rivelazioni dell'ultima ora potrebbero ancora cambiare le carte in tavola e far sì che Macron perda per strada una parte del suo elettorato. Sarà molto molto interessante vedere come procederà questa corsa e come ci sarà già il primo turno delle presidenziali in Francia. Grazie intanto a Marco Mussanè. Ciao Marco. Grazie a voi. Ciao. Ora restiamo ancora su questa ampia pagina di esteri, ma con la Turchia e col nostro Alberto Negri del Sole 24 Ore. Caro Alberto, ciao. Buonasera a tutti voi. Perché vogliamo capire la Turchia in che direzione si sta muovendo, e prima di tutto il suo presidente Erdogan, perché adesso c'è questa altissima tensione con l'Olanda di questi giorni, perché l'Olanda ha accompagnato fuori dai propri confini dei ministri, dei rappresentanti del governo turco, perché non vogliono che faccia Erdogan campagna politica, campagna elettorale referendaria sul territorio olandese, no? A proposito del referendum costituzionale che si svolgerà prossimamente in Turchia. Poi ha minacciato l'Europa di rimandare indietro un'invasione di profughi, di rifugiati, perché c'è questo accordo, si sa, no, da qualche tempo tra Europa e Turchia per in qualche modo contenere i flussi migratori. Che succede Erdogan? Quali sono i suoi obiettivi, Alberto? Ma io penso che ci sia in corso una sorta di doppio ricatto tra l'Unione Europea, l'Europa ed Erdogan. Il doppio ricatto è questo: da una parte la Turchia dipende dall'Unione Europea per la sua economia, il 50% degli scambi, il 70% dei prestiti e degli investimenti diretti in Turchia vengono dall'Europa. Ed è chiaro quindi che la Turchia non può fare a meno dell'Europa, ma allo stesso tempo l'Unione Europea non può fare a meno di Erdogan e della Turchia per quell'accordo a cui ti riferivi per fermare i migranti. Insomma, l'Unione Europea ha fatto di Erdogan una sorta di muro anti-migranti ed è chiaro che Erdogan cerca in qualche modo di ricattare gli europei. Perché? Qual è la ragione di fondo di tutto questo? Erdogan ha perso la guerra in Siria, ha dovuto allearsi con la Russia, con cui aveva litigato un anno e mezzo fa, nel 2015, e addirittura chinare il capo di fronte all'Iran degli Ayatollah. Insomma, ha dovuto cambiare totalmente la sua politica, e che per un paese che è membro storico dell'Alleanza Atlantica, della NATO, insomma si tratta di un rivolgimento quasi epocale. L'Europa da questo punto di vista è stata un poco miope, è arrivata impreparata a questa svolta della Turchia e oggi Erdogan cerca in qualche modo di trovare una rivincita in Europa rispetto alla sconfitta che ha subito sul fronte medio orientale. Senti Alberto, questo referendum costituzionale quando si terrà esattamente in cosa consiste? Nel dare più potere a Erdogan, aprile, immagino, no? Il 16 aprile ci sarà questo referendum che praticamente assegna quasi pieni poteri al presidente. Tra l'altro Erdogan ha già praticamente scalato, ha fatto una sorta di takeover della Turchia perché controlla con un fondo sovrano le maggiori società pubbliche turche, dalla Turkish Airlines alle telecomunicazioni alle banche principali, quindi in qualche modo è già padrone della Turchia interna, ma con questa crisi, prima con la Germania e poi sempre più acuta con l'Olanda, in qualche modo ha innalzato la bandiera del nazionalismo, che ancora più dell'Islam è quello che smuove l'opinione pubblica turca e quindi dei consensi, e spera in qualche modo di vincere questa partita, che per lui è vitale, perché dopo aver vinto le elezioni in qualche modo potrà, questo referendum in qualche modo potrà prendersi una rivincita sulla sconfitta della Siria. Per anni aveva detto che Bashar Assad se ne doveva andare e invece Bashar Assad è ancora lì e ha dovuto piegarsi a Mosca e poi anche a Teheran. Insomma, se noi dobbiamo andare a vedere veramente le ragioni profonde di questa crisi, dobbiamo rintracciarle purtroppo in quel Medio Oriente che tanti guai ha provocato anche in Europa. Grazie Alberto Negri. Ciao. Grazie Alberto. Voi. Ciao. Viabilità adesso. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che adesso vi ricordo in pochi secondi, così cambiamo tema tra poco. Parliamo di Francia, il candidato di centrodestra Fillon è indagato per impieghi fittizi per moglie e figli. E poi Olanda, domani il paese va al voto ed è sempre più ai ferri corti con la Turchia, di cui abbiamo appena parlato. Libia, la CNN rivela che la Russia ha schierato forze speciali ai confini con l'Egitto, ma Mosca smentisce. Referendum in Italia su voucher e sugli appalti si vota il 28 maggio e il ministro Poletti non esclude che si voti in contemporanea con le amministrative. Torino, sedute spiritiche con stupri di gruppo, tre persone arrestate. Stop della Corte Europea al velo, è possibile vietarlo sul lavoro, dice la Corte di Giustizia. E per il calcio continua la sfida di Champions tra Juventus e Porto, sempre 1-0. E torniamo a questo punto a parlare di Libia. Intanto ritorna la Libia, in realtà la Libia non si è mai mossa di lì, è sempre là nel suo caos totale, almeno per noi comuni mortali, per cui per i quali è difficile capire appunto che situazione ci sia effettivamente. 5 anni dopo l'inizio, anche di più, della rivoluzione che avrebbe portato alla guerra contro Gheddafi, quindi alla sua eliminazione, la Libia è infatti in un caos totale. Difficile per noi, dicevo, capire bene cosa succeda man mano, quali siano le forze in campo, in che direzione si muovono, quali siano anche gli obiettivi di queste forze in campo. La notizia comunque di oggi è che c'è un altro protagonista sullo scenario, che è la Russia, che avrebbe inviato un comando di forze speciali in una base egiziana al confine con la Libia. La CNN dà notizia che aerei da ricognizione americani oggi hanno individuato un aereo da trasporto russo e un grande drone russo su una base, in una base aerea appunto nell'Egitto occidentale vicino al confine con la Libia, e secondo fonti della TV statunitense si tratterebbe di un'ulteriore conferma che Mosca sta interferendo in Libia. Anzi, l'ha detto praticamente esplicitamente un comandante americano in Africa, che dice: stanno tentando di fare in Libia i russi la stessa cosa che hanno fatto in Siria. Però poi arriva una notizia, una smentita di Mosca, che dice: le forze speciali russe non si trovano in Libia né in Egitto, si tratta di una bufala forse diffusa nel tentativo di distrarre l'attenzione pubblica dalla decisione di Washington di inviare forze speciali americane in Siria per partecipare alla liberazione di Raqqa. Insomma, notizie smentite, reciproche accuse. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza con Arturo Varvelli, che è responsabile dell'osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, nonché grande esperto di Libia. Arturo, aiutaci tu. Buonasera. Spero di poter essere utile, ma non è detto che lo sia, perché naturalmente speriamo. Rimane complesso. E la Libia è un caso sempre più complesso anche per gli esperti. Naturalmente è molto difficile contestualizzare questa crisi libica, perché ormai è diventata una sorta di guerra per procura. per la quale non bisogna solamente unicamente guardare agli attori interni, ma bisogna continuamente guardare alla correlazione che hanno questi attori interni con gli attori esterni. La Libia è diventata, come dire, una parte della scacchiera sulla quale le potenze internazionali giocano la loro partita, in particolare l'Europa, gli Stati Uniti, i paesi limitrofi, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria, i paesi della regione, quindi i paesi arabi e naturalmente sempre di più da qualche mese a questa parte naturalmente la Russia. Quindi diciamo che attualmente nel sistema internazionale, in particolare nella regione medio orientale, è sempre più difficile capire quali sia il sistema di alleanze, e questo quanto avviene in Libia è una sorta di riflesso di quanto avviene a livello internazionale. Io penso che la Russia si sia in qualche maniera cercando di infilare in un vuoto di potere che è stato lasciato da altri relativamente alla crisi. Dove voglia arrivare è molto difficile capirlo in questo momento, può essere solamente una strategia diciamo di breve periodo, ossia capire fin quando c'è manovra e occupare delle posizioni che sono lasciate, nell'ottica anche di scambiarle poi su questa scacchiera più grande con altre questioni che sono più rilevanti come la Siria. Non è un caso che ad esempio la Russia abbia citato nel comunicato di smentita la Siria, oppure l'Ucraina, oppure altre cose ancora che sono naturalmente più rilevanti della Libia per lei, oppure altrimenti può solamente voler aumentare la propria influenza in un'area che comunque, seppur non vitale, rimane molto importante per la Russia. La Libia è un paese ricco di energia, la Russia ha una strategia sull'energia che non collima con quella dell'OPEC, quindi naturalmente ci possono essere interessi. Il punto era proprio questo, Arturo Varvelli, no? Nel senso, al di là che tutto lo scenario internazionale, il contesto internazionale, diciamo, rappresenti interessi geopolitici, equilibri spesso difficili da comprendere, in più però la Libia ha anche appunto le risorse energetiche, no? Quindi questo per ricordare anche a chi ascolta perché per esempio in questo momento la Libia dovrebbe essere così interessante. Sì, certamente, la Libia è un paese ricco ed è un paese potenzialmente ricco. È abbastanza surreale che in realtà i libici non si accorgono di poter vivere in tranquillità, in maniera pacifica, perché vivono sui pozzi di petrolio, sulla loro ricchezza. In realtà si sono innestate delle forze centrifughe che è difficile in qualche maniera disinnescare, soprattutto perché in questo momento sono continuamente alimentate dall'esterno. Io penso che anche le scaramucce che ci sono state, il conflitto che c'è stato recentemente, che sta coinvolgendo proprio i terminal della Sirtica, in particolare Sidra e Ras Lanuf, che sono due terminal molto importanti, che sono contesi tra diverse milizie e che ha visto addirittura delle milizie islamiste piuttosto radicali prenderle solamente per strapparle ad Haftar per poi concederle al governo di unità nazionale. Questo testimonia quanto sia complesso e intricato lo scenario libico, nel quale per adesso sembra predominare il fatto che l'importante non sia avere una visione strategica o ottenere un obiettivo, ma far perdere il proprio avversario. E quindi sostanzialmente è un gioco a somma zero nel quale non si riesce a uscire, non si riesce a ricostruire un paese. Chiarissimo, chiarissimo come sempre. Grazie, pur nel caos di questa situazione, ad Arturo Varvelli dell'ISPI. Grazie. Grazie a voi. Stavo guardando ancora i vostri messaggi a proposito della sentenza della Corte Europea di Giustizia che dice giusto vietare il velo sui posti di lavoro se un'impresa, un'azienda ha deciso con un suo regolamento interno di farlo, di eliminare qualsiasi segno religioso. Dice Fabrizio, il velo è sottomissione della donna all'uomo, non dobbiamo accettarlo. Pagina Facebook di Effetto Notte per voi. Intanto ci colleghiamo subito con Torino, dove c'è Dario Ricci per la Champions, la partita tra Juventus e Porto. Come procede, Dario? Allora, siamo al 54esimo di gioco, Juventus sempre in vantaggio di un gol e di un uomo. L'azione decisiva, lo ricordiamo, al 41esimo del primo tempo. la conclusione di Higuaín dopo una splendida parata di Iker Casillas, e proprio sulla linea di porta Maxi Pereira, difensore del Porto, che respinge con un tuffo toccando il pallone con entrambi le braccia. Inevitabile il calcio di rigore e l'espulsione del difensore portoghese. Sul dischetto va Dybala che trasforma di sinistro, Juventus quindi in vantaggio appunto 1-0 e con un uomo in più. A inizio della ripresa bianconeri vicini al raddoppio con un cross di Dani Alves deviato dal portoghese Danilo e salvato e autogol evitato da Casillas con una prodezza e anche con l'aiuto del palo. Un minuto dopo però il portoghese Soares si è ritrovato a tu per tu con Buffon dopo un'incertezza di Benatia. Fortuna per i bianconeri che l'attaccante lusitano è stato in questa occasione impreciso. 55esimo di gioco, Juventus 1-0 e bianconeri forti anche nel 2-0 dell'andata, davvero vicini ai quarti di finale di Champions. Vedremo, grazie De Lurici, buona partita, noi ci aggiorniamo brevemente alle 22.